Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insorgante traghettatore, questa puntata viaggiamo verso Torino, che singolarmente protagonista assoluto di questa trasmissione per alcune iniziative che riguardano la grande distribuzione, cioè i centri commerciali, i vecchi cari supermercati, stanno diventando centrali nell'evoluzione dell'economia sociale. È qui che si stanno combattendo gli sprechi, si stanno ottimizzando i processi, percorsi di educazione al consumismo consapevole, ma anche solidarietà, tanta solidarietà. E poi anche qui stanno arrivando ovviamente l'onda lunga del percorso di sostenibilità, che mai come in questo caso diventa mercato. Da Torino a Tokyo via New York, Parigi e Malibu, storia di una catena di gelaterie speciali con il pallino della sostenibilità. Nel 2009 quasi 60 organizzazioni benefiche hanno fatto la spesa di prodotti alimentari sani ma non più commerciabili alla Novacop per un valore di 1.300.000 euro, senza passare dalla cassa. Meno spreco, meno costi, meno rosso sul conto corrente a fine mese. Come? Basta tornare ai vecchi cari prodotti sfusi. In questo viaggio c'è anche Gaetano Giannetto. Ciao Gaetano Giannetto. Buongiorno a tutti. Gaetano Giannetto è CEO di Pipoli Group, che è un'azienda che si occupa, diciamo pure che è, come dire, centrale rispetto ad alcuni percorsi della grande distribuzione. Tu Gaetano sei stato a lungo, hai avuto una visione europea della grande distribuzione quando lavoravi in Nielsen, nella grande Nielsen. È vero, sì. E da lì hai visto per anni come funzionava. Ecco, oggi sono passati forse 10, forse anche meno, tutto sommato, sembra una vita fa. Oggi, dal tuo punto di vista di mega esperto della grande distribuzione, che cosa è cambiato realmente da 10 anni a oggi nella grande distribuzione? Se è cambiato? Dal mio punto di vista sono cambiate due cose essenzialmente. La prima cosa è che il supermercato, il punto vendita, si è trasformato da tipico luogo di consumo, quindi aggregatore di prodotti, la spinta verso il consumismo, l'acquisto d'impulso, a un tempio di consumo. Cioè, come tempio di consumo intendo una sorta di aggregatore quasi religioso, permettimi questa iperbole, di prodotti che siano in grado di dare anche una valenza, di imprese, come abbiamo sentito nel lancio proprio di questa trasmissione, che offrono anche dei valori sociali, che si stanno trasformando per dare il bidone delle batterie scariche, i prodotti, in molti negozi si vedono contenitori per la plastica che non va inserita nel contenitore della plastica riciclata, i prodotti a chilometro zero, prodotti con le uova allevate a terra. E questo è un primo grande filone, quindi non la spinta verso il consumo, ma un'offerta anche promozionale non più legata all'acquisto esagerato, acquista 4 e paghi 2, ma lo sconto anche sul singolo pezzo, anche in virtù della crisi che oggi ci sta un po' attanagliando. Certo, la grande distribuzione è anche diventato un luogo dove si vendono molti servizi, e questo prima non era così. Assolutamente sì, moltissimi servizi, alcuni dei quali veramente innovativi. Posso parlare di quello che è l'argomento fondamentale di questa grande trasformazione, cioè virtualizzare prodotti e servizi che prima non erano disponibili all'interno dei punti vendita. Parlo specificatamente delle gift card, che sono dei voucher che sostituiscono il prodotto, ma nel senso più puro del termine, quindi non ho costi di logistica, non ho costi di servizi, ma allo stesso tempo con un cartoncino acquisto un bene che poi qualcun altro direttamente, uno a uno, senza sprechi logistici di trasporti ulteriori, mi consegnerà a casa. La grande distribuzione noi oggi la leggiamo anche in una maniera un po' orizzontale, cioè per esempio anche di un'iniziativa molto originale torinese, l'abbiamo detto già sin dall'inizio, si chiama Grom e per molti è già un mito. Sono stata in Italia da piccola e poi quest'estate per un paio di settimane sono stata ad Empoli con amici e parenti. Oggi non potresti camminare tranquilla per strada in Italia. Beh, a Firenze c'erano tanti americani, così... Ma anche in Italia ti adoriamo. Hai molti fan. Che bello! E poi sono stata da Grom a Firenze. Oh mio Dio, ma cos'è quel sapore? Viene dai boschi? Ecco, abbiamo voluto dare un segno, un tocco di colore più che una scheda di un'azienda. Sara Jessica Parker, vedete come ha parlato di Grom, con l'aria che tira in questo periodo per l'immagine italiana è sicuramente una bella pennellata, ed è grazie a Federico Grom e Guido Martinetti. Guido Martinetti è qui con noi, buongiorno Martinetti. Buongiorno a lei. Che questo è stato possibile perché ancora una volta da Torino, questa trasmissione ormai è così, parte questo messaggio Grom, questo gelato straordinario, che poi si afferma, caso di dirlo, in tutto il mondo. Quanti punti vendita ci sono di Grom, Martinetti? Oggi sono 48 in questo momento, e oltre ai punti vendita abbiamo anche un'azienda agricola di 15 ettari, che è il mio orgoglio, insomma, quindi questa è la realtà di Grom. E siete a New York, a Parigi, a Malibu, a Tokyo, tanto per citare alcune città. A New York, a Parigi, a Tokyo, all'estero, e a breve apriamo anche a Malibu. No, noi vabbè, non l'abbiamo invitata qui con l'amico Giannetto per parlare del suo gelato, che pure dicono che proprio ne vale la pena, ma in particolare volevamo che lei ci parlasse del progetto ecologico Grom Love World, che è appunto collegato al ruolo, diciamo, della grande distribuzione sui temi della sostenibilità. Che cos'è questo progetto? Ce lo racconti velocemente. Ma molto rapidamente, Grom è una società di proprietà di due ragazzi molto giovani e molto fortunati. Siamo io e Federico Grom, appunto, e riteniamo corretto essere banalmente delle persone responsabili. Questa responsabilità tocca degli argomenti altrettanto banali di vivere civile, cioè avere i dipendenti in regola e pagare le tasse, per esempio, quindi battere gli scontrini. Vabbè, è questo, grazie, in effetti. Però dice, non è così scontato. In realtà sono le fondamenta, perché è inutile parlare di responsabilità ambientale se poi ci si comporta in modo incivile dal punto di vista di faccendia sociale. Giusto. Ora, arrivando invece immediatamente alla... E avere i concetti della legalità, che è importante, che poi dopo diventano tutto il resto, hai ragione, è giusto. Credo davvero molto, come diciamo, ragazzo giovane e ottimista sul nostro paese. E dicevo che si tocca poi concetti di responsabilità ambientale, invece anche qui altrettanto semplici per certi versi, che vuol dire utilizzare la carta certificata, e quindi che proviene da foreste correttamente gestite, che è un problema che il nostro pianeta sta già affrontando in qualche modo, così come fare la raccolta differenziata. E altrettanto abbiamo deciso, perché oggi c'è l'opportunità di fare questo, di sostituire la plastica che deriva dal petrolio con una bioplastica che deriva invece dall'amido di mais, che è un prodotto straordinario, si chiama Master B, che ci ha consentito appunto di non utilizzare più cucchiaini, ma anche rivestimento interno delle coppette o gli shoppers, cioè i sacchetti in plastica, ma appunto con questo materiale che è davvero eccezionale. Ecco, ci raccontava anche fuori onda di questa gift card, che è un termine molto caro a Giannetto, visto che si occupa moltissimo di questo modo di vendere servizi in grande distribuzione. Lei ha fatto una gift card per i bambini, in modo tale da, come dire, consentire di andare in giro senza moneta che potrebbe turbare, attirare attenzioni non piacevoli, è così? Sì, ma esatto, e diciamo che è rivolta a tutti, nel senso che a grandi e piccini, come si suol dire. Poi il gelato è un prodotto che si rivolge molto anche ai bambini, siccome ritengo di fare un gelato, a prescindere dal buono o meno buono, sicuramente molto sano, è fatto con grande attenzione, senza additivi e così via, era l'idea di dare la possibilità appunto ai genitori di dare questa carta ai propri figli, che potevano poi venire in gelateria, possono venire in gelateria, senza maneggiare del contante. Ecco, questa è la logica della gift card. Ecco, adesso in pochi secondi però, perché ovviamente è una domanda storica per quanto la riguarda, ma com'è che due giovani probabilmente all'epoca, da quanti anni è che esiste Grom? Da 7 anni. 7 anni, quindi lei aveva 27 anni, giusto? E Federico Grom ne aveva 29, così? Perfetto. Com'è che vi viene in mente di fare una gelateria? Perché non è che sia proprio un'idea geniale in quanto tale, no? Cioè, faccio una gelateria, e non solo vi è venuto in mente, ma l'avete pensata subito alla grande per arrivare poi in così poco tempo a questi risultati. Com'è funzionato questa cosa? Guardi, è funzionato, come spesso succede, in modo buffo nella vita, e cioè io sono enologo, sono appassionato di frutta e di agricoltura, e stavo guardando quello che fa un imprenditore eccezionale, si chiama Angelo Gaia, in una sua vigna a Barbaresco. Stavo spiando questi lavori agricoli, diciamo, mi fermo un giorno di agosto, spiando nel senso buono, e leggere il giornale, c'era un articolo di Carlin Petrini che diceva, presidente di Slow Food, sì, diceva come... non c'è più nessuno che fa il gelato come si faceva una volta, cioè senza un solo prodotto di stagione e senza additivi. Parlando con Federico, che era un mio caro amico e che ha un'attitudine invece più finanziaria e economica, ho detto, ma sai Federico che l'idea è effettivamente banalissima, non certo geniale, non c'è nessuno che fa il gelato come si faceva una volta, e questo ce lo dice Carlin Petrini. In più mi sembra che non ci sia la stessa attenzione alla ricerca delle materie prime che invece è alla base della ristorazione di grande qualità. Federico mi ha ascoltato con attenzione, dopo una settimana, io sono quello forse un po' più fantasioso, lui è molto pratico e determinato, mi ha... L'ha seguita, e così è partito il mito, quello che si è già affermato come mito. Complimenti Martinetti, beh, a questo punto non ci resta che fare obbligatoriamente una visita nelle sue gelaterie. A presto, arrivederci. Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. È decisamente sorprendente, Giannetto, che nell'epoca, nell'epopea meglio ancora, della globalizzazione in cui c'è Coca-Cola e McDonald's dappertutto, arrivano due giovani torinesi con un'idea di un gelato semplice fatto con le cose buone di una volta e diventano un mito. Incredibile. È incredibile perché si ritorna un po' al passato, si ritorna a ciò che veramente manca oggi, cioè la relazione individuale, quindi il concetto di negozio al dettaglio, il mercato antico, il mercato del fresco, il concetto dello sfuso, sono gli elementi che stanno ritornando con forza. Al punto che della prossima torinese, a sto punto è inutile che ci giriamo attorno, il prossimo torinese è Cinzia Vaccagno che ci parla di un'iniziativa del negozio leggero. Acquistare senza imballaggi permette di ridurre i passaggi di filiera e di offrire prodotti di qualità ad un prezzo accessibile. Sullo scontrino medio si ha un risparmio che varia dal 30 al 70% a seconda del tipo di prodotti acquistati, e si ha una gamma completa che offre prodotti tradizionali di filiera corta e da agricoltura biologica certificata. In un anno l'eliminazione delle confezioni sulle sole vendite di vino, latte crudo e detersivo ha portato un risparmio complessivo di risorse pari a 104.290 kWh di energia, 34 tonnellate di CO2 non emessa in atmosfera e oltre 9,8 milioni di litri di acqua che non sono stati utilizzati per la produzione e lo smaltimento del packaging in eccesso. Insomma, sembra il cerchio perfetto, costa meno, inquina meno, i prodotti sono naturali, evidentemente poi sono anche prodotti da chilometro zero, come si dice, quindi da coltivazioni molto vicine al punto vendita. L'idea è della società Rinova, Cinzia Vaccagno, di cui vi parlavo, è l'amministratore delegato, e l'avete chiamato Negozio Leggero. Ne è nato, ne avete aperto un altro, il quarto in Italia, a Orzi Nuovi, qui in Lombardia. Sì, l'abbiamo chiamato Leggero perché appunto è un negozio alleggerito degli imballi. E alleggerendo degli imballi, diciamo, abbiamo permesso al cittadino di ritornare in contatto diretto con il prodotto, quindi vedere le merci libere da marchi, libere anche da comunicazione eccessiva, e in qualche modo l'obiettivo era quello di dare la sensazione di una grande cucina, cioè un luogo in cui si guardano gli ingredienti e si ragiona su quello che si dovrà cucinare. E quindi una specie di hard discount virtuoso, potremmo chiamarlo così? No, è diciamo più una boutique alimentare economica, nel senso che la percezione dei prodotti è una percezione ovviamente di alta qualità, perché i prodotti sono di alta qualità, sono prodotti fatti da piccole aziende italiane, spesso biologici, cerchiamo di dare sempre la doppia scelta, quindi sia il convenzionale che il biologico. Sulla chimica offriamo sia il convenzionale che il prodotto a basso impatto ambientale, quindi sono prodotti di alta gamma. Il prezzo è economico perché si sono tolte delle cose, che secondo noi hanno un'utilità marginale. No, ma infatti io non dicevo al discount, non credo che il discount sia sinonimo di bassa qualità, ma di, come dire, chiedo a questo soccorso del nostro esperto Giannetto, al discount è l'assenza del marchio, il prodotto è ugualmente di qualità, anche perché se non è di qualità non se lo comprano nessuno, no? È così? Il prodotto è di qualità, l'esposizione è molto spartana, quindi lo scaffale è un po' più semplice, in magari il legno al cartone da aprire. Il prodotto è buono, ma è chiaro che quello che Cinzia sta trasferendo è anche la gradevolezza del punto vendita, penso. È così, Cinzia? Sì, diciamo che il tipo di approccio che si è voluto creare è un approccio molto estetico. Cioè, noi partiamo dal presupposto che ci sia bisogno di bellezza nella vita, quindi luoghi dove sì, si spende poco, si compra bene, ma si ha anche il piacere di stare in quel luogo, perché il posto è bello, è molto curato, le persone che lavorano nei punti vendita sono preparate, quindi si ha la possibilità anche di fare un dialogo qualificato, aspetto che nella quotidianità spesso manca, perché abbiamo anche a livello di conversazione delle lacune, no? Certo, certo. Grazie Cinzia Vaccanio, mi raccomando, continuate su questa strada. Dopo il arrivederci. Dopo quindi il buono dei Grom e il bello Rinnova del negozio leggero, adesso andiamo al sodo, forse si potrebbe definire così, e parliamo con Nova Coop Gioacchino Maida. Buongiorno Gioacchino Maida. Buongiorno, buongiorno a lei. Lei è coordinatore del gruppo che ha realizzato steso il bilancio di sostenibilità di Nova Coop, che è appunto la cooperativa, le Coop piemontesi, da cui si evincono una serie di dati e di iniziative che avete intrapreso come Nova Coop sul tema della sostenibilità, anche poi attraverso iniziative sociali, culturali, di solidarietà, ma soprattutto sul piano della sostenibilità avete dei numeri importanti anche. Certo, noi da anni siamo impegnati, cioè lo impongono in qualche modo, in modo i nostri statuti, la storia, eccetera, e i nostri valori, per cui siamo impegnati da anni a fare attenzione ai temi dell'ambiente e a fare attenzione a comunicare questa cosa sul territorio in maniera capillare, per cui da una parte c'è l'impegno nei punti vendita con interventi sull'illuminazione sostenibile. Abbiamo già realizzato 5 impianti fotovoltaici in 5 punti vendita diversi, abbiamo iniziato interventi di coibentazione, stiamo provando a produrre energia pulita presso un ipermercato in maniera sperimentale, poi ovviamente allargheremo la sperimentazione. Sulla raccolta differenziata il dato forte è che recuperiamo l'83-46% del totale delle 12.000 tonnellate di rifiuti prodotti da Nova Coop, quindi i numeri sono veramente alti e tutto ciò permette di avere un risparmio notevole e avere un impatto ambientale sicuramente più basso di quel che già la grande distribuzione insomma in qualche modo ha. Beh, aggiungo a quello che sta dicendo lei, che leggo dalla vostra scheda, che avete risparmiato 34 milioni di kilowattore, 18 miliardi di litri d'acqua ed evitato di conseguenza la distruzione di 110.000 alberi. Sembrano numeri enormi. Certo. A questo può aggiungere il fatto che abbiamo contribuito al progetto della vendita per esempio dei detersivi sfusi, che era un progetto della Regione Piemonte che va avanti da 4 anni, abbiamo contribuito per il 66% noi come Nova Coop. Complessivamente, per avere un'immagine visiva della cosa, si sono risparmiati 2 campi da calcio di flaconi di plastica e a questo noi abbiamo contribuito appunto con 2/3 del totale. Senta, purtroppo dobbiamo chiudere, ma una battuta me la deve fare, perché fra le cose che mi piace citare c'è anche questa attività di educazione al consumismo consapevole, che in qualche modo può sembrare contrastante certe volte col fatto che la grande distribuzione invece spinge per acquistare qualsiasi cosa sempre, però questa attività voi la state facendo con un grande serietà. Abbiamo festeggiato nelle scorse settimane 30 anni di educazione al consumo consapevole, coinvolgiamo solo in Piemonte 1300 classi, 25.000 bambini, ragazzi, è chiaro che noi diciamo delle cose, diamo delle informazioni il più corrette possibile, poi sta ai ragazzi fare la scelta quando si trovano in un supermercato, ovviamente non sta a noi imporre le scelte, saranno loro con le maggiori informazioni avute poter scegliere al meglio quello che devono acquistare. Decisamente interessante, magari di questo ne riparliamo ancora, di così recuperiamo anche parzialmente a questa compressione temporale sulla sua partecipazione a Ferribotti, di consumo consapevole nelle scuole sarà proprio il caso che ne riparliamo. Grazie Gioacchino Maida, a presto. Arrivederci. Gaetano Giannetto, responsabilità della grande distribuzione, visto che è il punto cruciale, no? Io dico sempre, la responsabilità sociale delle imprese vuol dire passare dal consumismo compulsivo al consumismo consapevole. La grande distribuzione, essendo il luogo finale di acquisto, ha veramente delle grandi, enormi potenzialità in questo senso. È corretto, abbiamo sentito di detersivi, ma addirittura anche di acqua sfusa come ultima frontiera. Una notizia di qualche giorno fa, la COP di Gavinano in Toscana ha lanciato anche questa nuova sfida, considerando che l'Italia è il paese che consuma il maggior numero di litri di acqua minerale. Quindi vorrei chiudere proprio con questo concetto: se negli anni Ottanta era la marca che guidava il cambiamento, l'impegno, oggi attraverso l'impegno sociale, la responsabilità sociale, il consumo sostenibile è proprio il punto vendita che si caratterizza come il guidatore del cambiamento. Grazie a Gaetano Giannetto di Epipoli Group, ci risentiremo sicuramente. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie anche ad Anita Panizza, come al solito in redazione, e a Valeria Bernardi che ha curato la regia di questa puntata, che sarà disponibile sul sito di radio24.it. A risentirci.